Nelle comunità matrifocali neolitiche il concetto di morte come lo intendiamo noi non esisteva. Questo perché il concetto lineare di storia è stato introdotto dal patriarcato, ossia una storia lineare che va dritta, un punto di inizio, un punto di fine, dopo la fine non si sa, no? Questa storia lineare che va dal punto A al punto B non è un concetto che fa parte della natura femminile e delle culture matrifocali, perché la cultura femminile. Lo spirito, l'anima femminile ragiona in senso circolare e in senso spiraliforme, e quindi in senso ciclico. Il fatto stesso che il nostro corpo viva la ciclicità, ci obbliga, tra virgolette, ad essere e a pensare in modo ciclico. Quindi tutto quanto entra ed esce, dal grande campo della manifestazione. Le culture matrifocali neolitiche e ancora oggi quelle che vivono in maniera vicina alla natura non temono la morte come un fatto finale, come un fatto di cui aver paura, ma semplicemente come un momento in cui si deposita un corpo ormai obsoleto. Ovviamente noi non siamo il nostro corpo, noi siamo spiriti, siamo coscienze, siamo punti di consapevolezza che abitano un corpo che possiamo considerare un trasporto, un modo per esprimerci, ma non è, ma noi non siamo il nostro corpo. Questo credo che sia pacifico in tutte le persone che camminano la via dello spirito, non vale neanche la pena di starci sopra. In un modo o nell'altro, tutte quante abbiamo già elaborato questa cosa e ne siamo consapevoli. Quindi questo corpo, che è legato alla terza dimensione, quindi al concetto di inizio e di fine, si stanca. Diventa decrepito, si rovina con tempi diversi ovviamente, ma arriva il momento in cui non ce la fa più a supportare il cammino dell'anima. Quindi la natura meravigliosa, la grande madre, se vogliamo chiamarla, cosa ha previsto? Che noi possiamo lasciare questo corpo e aspettare che ne venga pronto un altro, se abbiamo ancora motivo di tornare in questa dimensione per terminare le nostre esperienze. E in effetti nelle comunità matrifocali si festeggiava il momento, si festeggiava il luogo e il tempo in cui i corpi venivano lasciati dagli spiriti, si festeggiava come un momento di transito attraverso la porta dell'Ovest. La dea aveva queste due grandi facce, ne abbiamo parlato l'altra volta, la porta dell'Est, la dea bambina attraverso la quale si, che è la guardiana della porta dell'est attraverso la quale, come il sole, no, si entra in manifestazione, e la porta dell'ovest di cui è guardiana la dea anziana, la crona, che è la guardiana del tra è colei che garantisce un buon transito e che garantisce che le anime che hanno lasciato il corpo, perché il corpo non era più funzionale al cammino in terza dimensione, possano ritorna o comunque diciamo nella dimensione della materia, perché non so poi se fosse terza o quinta quella in cui vivevano le comunità matrifocali, diciamo comunque una dimensione dove c'è una densità da sperimentare, potessero poi tornare nei nuovi corpi prodotti dalle madri dei clan, quindi nei bebè del clan, ed è per questo anche che le donne erano considerate sacre, perché erano coloro che garantivano che i morti del clan, le anime del clan, potessero ritornare in vita. Quindi questa ciclicità era celebrata e il momento in cui si usciva dalla porta dell'Ovest non era una morte, ma era il transito per andare a sperimentare come il sole, no? Quando tramonta di qua e va nell'altro emisfero, noi non lo percepiamo più, ma lui c'è e sta viaggiando dall'altra parte. La stessa cosa fa l'anima, quindi per sperimentare la parte non fisica, non densa, ma rimanendo comunque viva, perché è pura energia, è pura coscienza, quindi non può mai essere distrutta. Non ha una fine, non ha un inizio, è pura coscienza e può soltanto trasformarsi. Questo concetto di morte, il fatto che non avessero il concetto della morte, fa sì che ovviamente la loro vita fosse, non fosse manipolabile da questa grande paura che ci hanno instillato, che è la paura di morire. Se voi ci fate caso, ogni forma di manipolazione, di deprivazione della libertà, incluso quello che sta succedendo oggi, noi lo subiamo, tra virgolette, quelle di noi che lo subiscono, proprio perché crediamo alla morte. Quando davvero ci si libera da questo pregiudizio della malattia e della morte, noi diventiamo liberi. Cioè, nessuno ci può più far paura, nessuno ci può più obbligare in nome di una sopravvivenza a fare quello che non vogliamo fare. Ecco, questo è fondamentale capirlo perché le comunità matrifocali neolitiche avevano questo concetto della morte come, diciamo, manifestazione della porta dell'Ovest. Speculare parallela alla nascita, quindi non alla vita, no? La morte non era opposta alla vita, la morte era speculare, complementare alla nascita, cioè il punto di ingresso in manifestazione dalla porta dell'est. Capite che veramente è un altro modo completamente di vivere, perché così allora vedete proprio la spirale, si entra da est, la fanciulla, la vergine, si passa al sud, allo zenith con la madre. La madre fertile, quindi la donna che partorisce, ossia il nostro corpo nel suo pieno vigore, si va all'ovest, dove si esce dalla porta dell'ovest, dove c'è la crona ed è il corpo che non riesce più a reggere, non è stanco e va lasciato, per poi uscire dalla porta dell'ovest e andare dove? Al nadir, nella fase oscura, dove continua il cammino, ma continua con un veicolo diverso. Per poi ritornare quando si è pronti, quando si decide, quando se si vuole, ritornare in incarnazione densa, tornando all'est, quindi è circolare, non è lineare. E il bucranio, che è il simbolo di cui parleremo stasera, è una celebrazione, è un simbolo meraviglioso utilizzato dovunque nel Neolitico, in tantissimi siti sacri, è proprio la celebrazione di questo ritorno, di questo transito. Io non so come facessero le nostre antenate, i nostri antenati a conoscere l'utero, probabilmente, siccome a quell'epoca non si seppellivano e non si bruciavano le salme, venivano lasciate esposte agli avoltoi. L'avoltoio era l'animale sacro, l'animale totem della dea anziana, proprio perché l'avoltoio, comunque tutti gli uccelli necrofagi, erano i responsabili, i guardiani che garantivano che il corpo ritornasse, divoravano il corpo e attraverso le loro feci il corpo ritornava nella natura fino a che rimanevano solo le ossa, quindi la salma veniva esposta, veniva lasciata affinché gli uccelli potessero nutrirsene. Quindi, secondo me, io oggi mi sono chiesta com'è possibile che le culture neolitiche conoscessero, avessero visto l'utero e ovaie. E mi sono data questa spiegazione, cioè loro vedevano da dove nascevano i bambini, ne abbiamo parlato l'altra volta, no? Si osservava che i bambini uscivano dalle pance delle donne, quindi è possibile che mentre gli animali, mentre gli avoltoi scarnificavano le salme, non mi piace chiamarli cadaveri, preferisco chiamarli salme o corpi, comunque, che avessero visto che cosa c'era nella pancia, avessero quindi identificato, forse era magari morta qualche donna incinta e hanno trovato il feto dentro nell'utero, e quindi hanno capito che i bambini venivano da lì, sta di fatto che hanno cominciato ad adorare questa forma che hanno trasformato, però stilizzata, ovviamente per poter fare pittogrammi, per poter decorare le ceramiche, dovevano semplificare, stilizzare l'immagine dell'utero e delle ovaie, quindi hanno creato il bucranio, il muso del toro. Bucranio significa cranio del bue o del toro. Hanno creato il muso del toro, che è niente di più e niente di meno che un utero con le ovaie stilizzato. Sia il muso del toro è l'utero e le corna sono le ovaie. Posso dire questo, che ci hanno sempre passato il muso del toro, il toro come immagine di virilità, come un'immagine collegata alla forza mascolina, alla forza della fecondazione da parte del maschio, no? Della femmina da parte del maschio, mentre in realtà il toro è assolutamente un'immagine femminile, il muso del toro è un'immagine femminile che è stata trovata in tantissimi luoghi sacri, sia dipinta che scolpita, che addirittura in forma di sito megalitico. E quindi, Questo bucranio è, diciamo, la creazione simbolica, cerimoniale, sacra dell'apparato, riproduttivo femminile, quindi utero e ovaie. E tutto questo, tra l'altro, risale ad un'epoca in cui, probabilmente, in cui non è, le donne non erano consapevoli che l'uomo avesse un qualche ruolo nella riproduzione, ossia gli uomini non erano considerati i padri, non, il concetto di paternità non esisteva, i figli erano delle madri e basta, erano figli del clan, venivano allevati dalle madri, dalle sorelle delle madri, dalle zie, dalle nonne e dalla matriarca. Il ruolo degli uomini non era quello di fecondare le donne, ma era quello di prepararle ad ingravidarsi, stimolando le zone del piacere. Allora, una cosa molto importante, è che, è stato scoperto, circa, perlomeno io l'ho saputo circa una quindicina di anni fa, mi è stato regalato un libro che è stato molto molto importante per me, un libro di una ricercatrice tedesca che si chiama Marianne Betz. Il titolo è Partenogenesi Oggi, è un librino piccolino nel quale questa ricercatrice tedesca praticamente sostiene con prove alla mano che la partenogenesi è un fatto reale, cioè che la donna può ingravidare se stessa senza bisogno del seme mascolino. Questo accade in che modo? Quando la donna raggiunge realmente l'orgasmo, il liquido che emette durante l'orgasmo contiene gli stessi tipi di enzimi dello sperma, quindi fanno partire la maturazione dell'ovulo esattamente come farebbe lo sperma. Questa è la sua tesi. E quindi la partenogenesi, partenos in greco significa fanciulla, quindi partenogenesi significa essere generati da una fanciulla, da una vergine, quindi che non è stata penetrata o inseminata dall'uomo. È una cosa possibile perché ha a che fare proprio con il provare piacere e con l'emissione di questa sostanza, di questo liquido, il liquido dell'orgasmo femminile che praticamente fa partire la maturazione dell'ovulo. E questa teoria trova riscontro. Primo nel fatto che nelle società matrifocali sia neolitiche che in quelle che ancora oggi esistono, praticamente l'uomo è colui che prepara la donna ad essere ingravidata, la prepara attraverso il farle provare piacere, no? Quindi è come se fosse una conferma del fatto che l'uomo c'entra in qualche modo, no? Perché stimola, prepara, apre la donna a provare il piacere, poi la donna può anche ingravidarsi da sola. Essere ingravidata dall'uomo, ma anche ingravidarsi da sola. Quando la donna si ingravida da sola, nascono solo femmine, cioè dalla donna da sé possono nascere solo femmine. Quando invece sono maschi, è possibile che siano stati, che escano quindi dalla commistione di ovulo e sperma. E questo spiegherebbe tutte le varie nascite. Ai tempi, per esempio, nel Medioevo, c'erano ragazze, donne che rimanevano incinte senza aver avuto rapporti e venivano considerate streghe. Cioè, succede ed è successo che donne dicano che non hanno avuto contatti con l'uomo e però sono rimaste ugualmente gravide. Quindi c'è questa spiegazione, perlomeno Marianne Weiss dà questa spiegazione e spiegherebbe anche come mai. In molte società patriarcali, fortemente patriarcali, la fanciulla che raggiunge la pubertà e quindi la possibilità di provare piacere fisico viene infibulata, viene escissa, viene messa in una grotta in modo che non veda più il sole per mesi, cioè si fa in modo che il suo corpo non impari, non si abitui, non apprenda come provare piacere per evitare le nascite partenogenetiche. So che tutto quello che vi sto dicendo vi sembrerà stranissimo, ma dopo magari vi metterò in chat la foto con tutti gli estremi di questo libro, così chi di voi se lo vuole guardare lo potrà fare. In ogni caso sul mio sito c'è un articolo, vi linkerò anche quello, che parla proprio, è una, diciamo, una sintesi di questo libro. che io trovo straordinario perché mi si chiariscono veramente tantissime cose, anche questo accanimento del patriarcato sul fare in modo che la donna non provi piacere, sul negare il piacere della donna, no? Cioè, questo motivo, perché se il patriarcato si assicura che la nascita, che la fecondazione e la nascita avvenga tramite l'uomo, può rivendicare il possesso del figlio, no? Altrimenti, anche perché così può nascere maschio. Se invece non può fare questo, nasce la femmina e il padre comunque non può, non esiste proprio il concetto di padre, esiste soltanto la madre ed eventualmente un compagno. E quindi questo concetto si inserisce in qualche modo sulla sacralità dell'utero, sul considerare l'utero sacro in questa fase della storia umana, cioè nel Neolitico, e non il pene, per esempio. Nel Neolitico ci sono pochissime raffigurazioni di organi sessuali maschili, mentre ci sono, abbiamo visto, tantissime statuette dalla Shilla Nagiga, le sculture, i bassorilievi, le statuette e i bucrani che invece enfatizzano, elogiano, consacrano l'organo, la vulva, la vagina e l'organo riproduttore femminile. Quindi io credo che lo vedessero, non è che non lo vedessero, non lo vedevano l'organo sessuale maschile, ma evidentemente per loro non aveva tutta questa importanza. E ricordiamo, l'ho detto tante volte, lo continuo a ripetere, che le società matrifocali neolitiche sono state società improntate all'abbondanza, alla libera condivisione, alla gioia e alla distribuzione in maniera equa di tutti i beni del clan. Quindi non c'era possesso, non c'era gelosia, non esisteva il concetto di coppia fissa o di matrimonio, che è un concetto patriarcale. Il matrimonio nasce come contratto per fare in modo che la donna porti una dote, quindi che una certa proprietà passi dalle mani del padre alle mani del marito direttamente, mentre in epoca matrifocale e nelle società matriarcali che ancora esistono oggi, e tutto questo l'ho appreso leggendo i matriarcati di Heidegger Abendroth, un librone enorme edito da Venezia, esiste il matrimonio di visita, ossia la donna si accoppia con chi vuole, in sostanza, lascia aperta ogni donna, ogni bambina, quando la bambina raggiunge l'età della pubertà, le viene assegnata una sua camera da letto privata, e lei ha la possibilità di accogliere e ricevere in quella camera chi le pare, perché il sesso è considerato un momento di condivisione del piacere, senza altre finalità, perché i figli che arrivano poi sono comunque benedetti e sono figli del clan, non è importante chi sia il padre. Quindi il compagno di quel momento, che può durare diverso tempo, come una notte sola, va, se trova la porta aperta, significa che la giovane o la donna è disponibile, se la trova chiusa vuol dire che c'è già dentro qualcun altro e quindi magari si ripresenta la sera dopo. Quindi vedete come i diritti delle donne sono assolutamente tutelati, protetti, e queste sono società felici. E società dove realmente tutti i membri della comunità sono tutelati secondo i loro bisogni. Ecco, dunque, nell'antica Creta, che è stata l'ultima civiltà matrifocale distrutta, perché essendo su un'isola i guerrieri indoeuropei sono arrivati dopo, perché avevano difficoltà evidentemente a imbarcare i cavalli, quindi la civiltà minoica è stata l'ultima ad essere distrutta dai guerrieri indoeuropei. C'era un rituale che si chiamava Tauro Catapsia, Tauro sei toro evidentemente, Catapso significa a ferro. Era un rituale nel quale veniva celebrato il toro come simbolo di fertilità, di femminilità, di accoppiamento, nella gioia, e consisteva nel saltare sopra il toro afferrandogli le corna. Quindi questo rituale, la Tauro Catapsia, era la celebrazione del muso del toro in termini positivi. Quindi questo rituale era un rituale di vita, perché gli atleti balzavano sulla testa del toro afferrandogli le corna, saltavano sulla sua groppa e e cadevano dall'altra parte. Questo è un affresco preso a Creta. Vedete che questa è proprio è una sorta di danza rituale sulla groppa del toro, ma non aveva nulla di cruento, non era un rito sanguinario, era un rito celebrativo, ancorché molto, molto acrobatico. Quindi questa è la taurocatapsia. Quando poi il patriarcato, i guerrieri indoeuropei hanno praticamente inglobato e distrutto tutta la cultura matrifocale e al culto della vita è stato sostituito il culto della morte e del guerriero che uccide, è entrata nel mondo la tauromachia, ossia la lotta tra tori. Tauromachia, machia significa proprio battaglia. Prima il combattimento tra tori e poi quella che noi conosciamo come la corrida, ossia l'uccisione rituale del toro, che io ho collegato e ho avuto conferme anche da amici studiosi spagnoli, proprio con un voler ritualmente uccidere il simbolo per eccellenza della nascita e della sacralità della nascita delle società neolitiche. Quindi la tauromachia che cos'è? Quel momento in cui il toro viene trafitto esattamente qui in mezzo, cioè se voi pensate a dove viene infilata la spada, capite che è come a voler separare le ovaie dall'utero, perché viene inserita tra le corna e il muso. Cioè io penso che, ammesso che si possa chiamarlo sport, che vuole uccidere un toro, lo colpisce dovunque, no? Dove il primo posto che capita si infila la spada, perché è proprio qui in mezzo tra gli occhi e le corna. Per questo motivo, a separare le ovaie dall'utero, cioè è un'azione che ha un significato magico e rituale terribile dietro, perché ogni volta che si uccide un toro in questo modo, che si pratica la tauromachia, e che non è un fatto solo spagnolo, perché viene praticato, è stato praticato anche in altre parti del mondo, si sta in qualche modo, come si può dire, rovinando, si sta corrompendo il simbolo del bucranio, che è uno dei simboli più sacri che noi abbiamo della tradizione matrifocale. Io credo di aver finito la mia trattazione, non voglio fare una conferenza, volevo soltanto darvi degli spunti per poi poter incontrare le antenate, avendo un'idea di quello che realmente è il bucranio e di come poi è stato utilizzato, perché poi chiaramente il toro è diventato il simbolo del mascolino, il simbolo della forza, della virilità, il simbolo della penetrazione, no? Con la forza e con la potenza dell'uomo, da parte dell'uomo alla donna. Oppure pensate che il segno del toro ha il suo domicilio in Venere, non in Marte o in Giove o in segni che possano farci pensare alla forza mascolina, ma in Venere, cioè quindi proprio il segno del godimento, perché Venere è un pianeta che porta in sé il concetto di godimento, il godimento fisico, il piacere. Ok, penso che adesso chiudiamo la comunicazione in maniera. A Wall Street, a New York, c'è questo grande toro, tutto d'oro, con queste grandi palle, messo proprio lì, nel quartiere di Wall Street dove c'è la borsa. Ho detto tutto. E infatti sì, è stato completamente, aiutami a trovare la parola, non stravolto, proprio corrotto, ma con intenzione, no? Questo simbolo è stato capovolto completamente per portare ricchezza secondo una visione capitalistica, non ricchezza secondo la visione matrifocale, che è quella della condivisione, no? Della È un distribuzione tra tutti. controrito, questo si chiama controrito, insomma, cioè viene usato il rito e viene capovolto completamente. Esatto, proprio questo, sì. Quindi tu arrivi a Wall Street e ti trovi sto grande toro d'oro con questi grandi Sì. testicoli terribili. Terribile, sì. Grazie, Ida.